Il punto di Stefano Folli. Ora sappiamo in via ufficiale ciò che sapevamo anche l'altro ieri. La Corte Costituzionale ha confermato che se si tornasse subito a votare lo faremmo con un sistema proporzionale come ai tempi della Prima Repubblica. È l'effetto dell'abolizione per incostituzionalità del Porcellum. Quindi cambiare la legge in senso maggioritario, ma senza esagerare, dice la Corte, è una scelta tutta politica che riguarda quanti credono nel cosiddetto bipolarismo. Tocca a Renzi, insomma, individuare la strada per modificare il sistema esistente prodotto dalla decisione dei giudici costituzionali, anche attraverso un'intesa con Berlusconi, l'altro bipolarista, ma è tutto da dimostrare che oggi Forza Italia voglia davvero un sistema maggioritario. Nel nuovo Parlamento conterebbe di più con il proporzionale. In altri termini, la strada di Renzi è in salita anche sulla riforma elettorale. Invece per Alfano, i centristi e i vari gruppi minori le notizie sono ottime. Se riescono a puntare i piedi avranno un sistema conforme ai loro interessi politici.